Lecri, non mi piacciono a me là. Sono i colleghi, mi so bene, vero? Non si parla così con nessuno. Poi quello che era dietro di me, quello che è sceso giù, non ce l'ha fatta entrare di là dove siamo entrati, dove sono entrato io, è entrato lui poi. Ma non sono cose da lodarti e sbrodarti là. Ma chi c'era quello là? Io sono entrato io di là giù, poi ha fatto scendere quello là anche. Quello là non ce l'ha fatta, l'ha fatto riuscire fuori ed è sceso poi Michele là. Ma no, non per questo li detto di lodare e sbrodare. Cioè che minchia, vede una macchina ribaltante mi passi da avanti, io non ho capito, con la cassa quasi tutta alta, ma non so da dove andare. Lo so, infatti, infatti l'ha mandato giù e si è trovato in difficoltà, perché non ha mandato un po' del chiato, no, tipo il tornatino, chiude la squadra, l'ha provato due o tre volte e dai un attimo, vai, vai a pizza e scarrigai. Già i voglio di su molte sonori, non va bene là, no, non ti porto da nessuna parte. Tanto se sei entrato tu, so che sei entrato anche tu, ok, siamo entrati, punto e boh, finito. Ma cosa c'è da dire? E lui c'ha un rimorchio più lungo di noi, 3-4 metri. Sì che in quella tornatino, tu giri una manovra, ma non ce l'ha fatta, l'ha provato 2-3 volte. E poi era azione da una parete all'altra, capito? Avevi 20 e 20. E aveva paura di toccare e ha preferito riuscirlo. Sto facendo la spesa, ma sono gli sgoccioli, Marco, non ce la faccio più a guidare. Ah, sei in attesa che ti chiamino per quell'operazione, sì? Sì, sì, ho già fatto tutto, ho fatto anche il pre-ricovero, ho fatto tamponi, tutto. Adesso se si decidono, perché con questo casino che c'è stato, che hanno dato tutti i finanziamenti al Cagliari, adesso se non ne hanno dato, stanno tutti protestando, i dottori. Ehi, tutta una mafia è già. Insomma, che hanno bloccato me, se ti dici così, ogni volta è così. Comunque mi ha detto che mi chiamano alla fine di questo mese e primi dell'altro. Cappa. Ma ascolta, questo sta andando bene, questo apparecchio dovrebbe uscire appena appena metallico, appena appena. No, ma già va bene, Marco, già è abbastanza buona la radio. E appena appena sì, ma è accettabilissimo. Eia, allora io provo a mettere in macchina, se c'è qualcuno bene, se no lo rimetto nel cofano a fare la muffa. Che apparecchio è quello? Quelli, come si chiama, PNI, ma non mi viene il nome. È omologato. Di quelli piccoli? Piccolo ma non troppo. Ah, non è di quelli tipo quello di Natalino che aveva comprato, quello piccolino. E dai, intanto sei riuscito, dai, almeno Marco. Ma c'è tua madre? No, negativo. Ma sei con l'amplificato, ma? No, no, questo è il mic normale già. Il mic normale, capsula, credo che sia piezoelettrica. È buona la radio, è bella forte, è bella chiara. Ma scusa già, cosa piezoelettrica? Al condensatore volevo dire, dai. Cioè non è dinamico, ecco, è quello di serie. Ho capito. Si sente bene, è abbastanza presente come radio. Per il resto ne sta entrando gente, tu lo sapevi, io sono senza cavo dell'antenna. Nell'antenna non si sa se andrà tolta per fare i lavori, capito? Ogni tanto si entra qualcuno, però non è più quel flusso che c'era prima. Ogni tanto entra qualcuno, per dire ieri sera io me ne sono andato sul 23, il sul 10 non c'era nessuno, sono andato sul 23, ho volato sul 23. Mi stavo facendo un po' di ascolto prima in altre frequenze e poi sono andato sul 23. A un certo punto vado dove c'è gente, Marco. Ehi, adesso d'altronde già. Purtroppo io non mi posso muovere da casa, a me mi avrebbe fatto compagnia se ci fosse stata tanta gente e se mi sarei trattenuto qua, capito? Coso non ha risolto, no? Vabbè, con lui non può risolvere, lui non ha niente, cosa, Natalino è a posto, non ha... è sempre il casino. Eia, ciao. Dicevo già, Natalino non ha risolto, no? No, che ne sappia io, no. Ci siamo sentiti, ma era tutto così. Ha detto che sta aspettando a prendersi la patente e dopo si cambia in luce, ha detto. Molto lo stesso, anche se disturba non me ne frega niente. Se devono mettere a posto loro. Eia, che casino di traffico. Vabbè, mi sono fermato già, sono fermo adesso. E dove sei? Al parcheggio lì. Dalla parte che si vede tutta Sassari, appena entra a sinistra, di Bricome. E infatti sei 9.30, Robby. Sì, officialmente davanti, è apertissimo, è una prova che avevamo già fatto. E lì è una bella zona, si vede tutto, Sassari, Sussu, Sennari, tutta la zona che c'è davanti. No, si vede Sussu. Cosa? Sorso mi sa che non si vede davvero, Che, buonasera, avanti. Ehi, ciao. Ciao anche a te. Gianni. Franco, la Sorso. Ciao Gianni, secco, Fra. Ciao, buonasera. Che è troppo forte. Ciao Fra, ben sentito, dopo tanto. Parcheggio di Bricco, mi piace un altro nome. Bricco, come cacchio si chiama? Ogni tanto le cambiano i nomi. Baracchino, qua c'è un malogatto. Fra, non mi sento. Cos'è, con la porta? Adesso va meglio. Perché stai uscendo? Col Galax. Ma con quello suo originale? No, è il microfono, troppo. Il Troxel. Troxel. Ho capito. Allora, te lo dico io come lo devi mettere. Lo devi mettere tra il 2 e il 3. Il coso l'ecco, e il volume anche a 10 va bene, però l'ecco tra il 2 e il 3. Tra il 2 e 4 rimane, dai. Come tra il 2 e 4? Prima del 4 c'è il 3, 2, 3 e 4. Tu devi mettere in mezzo tra il 2 e il 4, lì. È così! Il 3 non c'è, no? E questi mi hanno fatto 0, 2, 4, 6, 8, 10. fa, ma se tu rubboni al centro, tra il 2 e il 4 e 3, se rubboni al centro tra uno e l'altro e 3. Ehi, Franco mi sente? Forse non arrivo a socio. Sì che ti sento. Basso, sì, però io ti sento. Saranno 8 watt, a motore fermo saranno 8 watt, non di più. Eia, io ti sento discretamente bene. C'è QRM perché qua, sai, le insegne al neon, i LED, tutto quello che è, c'è un QRM allucinante. Però ti ascolto, vai già. Marco, ma hai detto che è omologato, come fa uscire con 8 watt un apparato omologato? Allora, ufficialmente è omologato, ufficialmente. Adesso è omologare. Vabbè, già, e se no qua non è il segnale, non riesco a fare la piala alla lingua. Ho capito, va. A giocare il video. Franco, come sta uscendo? Bene, bene, stai uscendo. Sta bene. Sembra... Ma che microfono c'hai? Non è il tuo solito squillante però, eh? Questo è un microfono da palmo, dai. È un microfono da palmo. Come si chiama, Marco, quel microfono? Aiuta. Ma il KPO? Quello, il 532? Ehi, il KPO, sì. Sì, dovrebbe essere una marca tedesca o polacca, non mi ricordo. KPO NM532. So che già ti dà l'effetto come se io parlassi così, attaccato al mic, dovessi stare tipo così, o di lato, oppure 10 cm dal mic, tanto amplifica. Ehi, guarda così, forse io ho abituato al microfono normale, lo stavo mettendo troppo attaccato alla bocca. Adesso mi dovrà. Più pulita. Sicuramente come ce l'avevo attaccata alla bocca, capito? Adesso ho abituato a usare il mic normale. Questo qua è il Galaxy Fra. Ah, te l'hai ripreso? Sì. Buono, l'hai trovato buono? Il mio è. Ma quello è venduto. Scappa. Ah, ma come mai? Perché quella persona era troppo ingombrante, non c'aveva spazio per metterlo, quindi me l'ha ritornato. Vedi, aspetta, almeno sai com'è quello. No, già va bene, funziona anche bene. Sì, sì, sì. Naturalmente ho pagato le spese per aggiustarlo, però me l'ha tornato, è stato in gamba. Va bene. Lì ci devo portare questo io, perché questo lo voglio mettere in frequenza come si deve, perché devo spostato. E più lo smitter. No, questo qua va bene, è tutto perfetto, non si muove la frequenza, 27.075 rimane così. E portalo da Molore, quello di Molore che... è una persona veramente in gamba, te la giusta in una lì. E infatti qualche giorno lo chiamo e vedo un po' se me lo fa. E il numero ce l'ha? No, negativo, ma già lo busco il numero. C'è anche, lo dovrebbe avere anche Claudio. Ce l'ha Bulldozer forse. Bulldozer ce l'ha anche, come si chiama? Carlo. Quindi intanto sarà un'ora e mezza di strada. Infatti sarà una trentina di chilometri dopo Malorba. Sì. Malorba, ma com'è? Fai Malorba, ma com'è, eccetera. Allora, Malorba saranno 30 chilometri. Perché com'è? Ci dovrebbe essere il bivio sulla destra. Già lo troviamo. Io non sono mai andato, dico la verità. Ma neanche io ci sono mai andato a Bore, però ci sono passato sulla strada lì. Magari andando a Nuoro o la Cagliari. Anche io ci sono passato, sì, più volte, però vabbè, non ricordo, dai. Non lo ricordo esattamente dove. Avanti Marco! Io vabbè, rimango un attimino in bianco già, perché io sono a gola secca e qua mi pare che c'è un bar, ma è più avanti. C'è una sete che non puoi capire, io sono abituato a bere tantissimo dopo quella cosa che mi era venuta, no? E non c'è un goccio d'acqua in macchina, sto sclerando. Casomai mi faccio una scappatina in fretta al bar. e poi rientro. Ehi, a te la dovresti portare appresso la bottiglietta, così almeno ce l'hai. Una bottiglietta in macchina e via. Avanti, Fra. Ehi, che fa? Ciao Marco, allora, vai, stai chiudendo. Ci sentiamo dopo. Già, tu dovresti essere qua, 9, perché con K sì, 9-5, sì, una cosa del genere. E invece qua mi arrivi 7. Non lo so. Ma non è colpa tua, è lo smitter questo. Ah, perché c'è lo smitter che non segna bene. Ma forse è da registrare, mi solo quello lì, lo smitter. Basta che tu ti prendi il K, guardi il segnale e ti lo fa lo stesso segnale del K ed è a posto. Vabbè, dai, magari poi se lo tocco io e poi gli voglio fare anche altri lavori. Vedo un po' di farlo bene questo, va. Ma lo tieni? Certo che me lo tengo. Quello è bello, ma quello bianco non ce l'hai più? Quello? Quello bianco, la Fayette. No, era della Midra, quello bianco. L'avevo venduto. Così ce l'aveva Rago, un amico mio, uguale. Sai che fine ha fatto? Lui è morto, poveraccio. Vabbè. E come ci va bene? Come te l'hai venuto? Ma avevo troppo la vendetta qua, ci avevo e ci ho buttato pure un po', mi ho tenuto solo un paio di baracchini, mi avevo tenuto il Midland, il 48 e il coso, il Lincoln, mi avevo tenuto e poi invece mi hanno regalato questo e mi sono tenuto anche questo, e questo però non lo so, questo è il regalo di un amico. Io, guarda, ci avevo tutto pieno, adesso ho venduto una stazione base e risulta tutto bello perfetto, sembra fatto apposta, tutto bello perfetto senza esserci troppa roba ingombrante, ogni ripiano c'ha i suoi strumenti, i suoi apparecchi e fatto il gioco, e così rilassava. Guarda, ci vuole molto spazio, ci vuole tenere queste cose, perché io c'è un grande lo spazio, però è come che non ne abbia lo stesso, perché c'è tanta roba, computer, c'ho di tutto sopra questa scrivania. E bisogna qualcosa farla pure per forza. Anche il mio è grande lo spazio, io c'ho un mobile a ripiano, poi lo chiudo e non si vede più nulla, scomparso. Ho un mobile tutto fatto a ripiano, nel ripiano c'è i suoi apparecchi. Vedi, così com'è la modulazione? Ha cambiato? Sì, è cambiato, è un po' più chiusa rimasta. Non devo rimanere, non è ciao Vale. Poi Vanino. Sì, buonasera. Che finisce. Brava. Tutti i segni, via. Via da voi, mi avete un bel. Chiaro la dichina che ti dico, Vali, e che fine fa? Sì, niente, è stagione. Io che ho sempre con la radio, capito? Adesso sono un po' a casa, sto rientrato dalle vacanze, se si sta chiamando, sono una settimana a letto. E adesso mi sto riprendendo piano. E cosa c'ho le ricorse? In nave, l'aria condizionata, ma è un corpo d'aria, un po' di ora, ma dato un po' di sette, va bene uguale, è andata bene lo stesso. Andare, se dove sei andato di bello? Stasera, queste erano le navi di MC. Hai visto, sopravvissuto. Quindi sei stato bene. Quanti giorni siete stati in navigazione? Oh scusa, ma con la M Costa, con la Costa Crociera. 15 giorni ho fatto. Questa è una delle più lunghe che fanno due volte all'anno. Caspita. Bello dai. Ma com'è non ve la schettina a guidare? No, si fa molto, non c'è la tanto arrivo comunque a casa. Sì, ci abbiamo fatto Francia, la Spagna, Portogallo e le Canarie in questo momento. Sì, allora Renko. Hai fatto lei, tanto si vive una volta solo, bisogna godersela questa vita. Ciao. io pensavo che eri fuori, dai, ancora. Non pensavo che eri qua. Pensavo che stavi ancora a lavorare. Niente, cosa... Vanni, tranquillo, tranquillo. Già l'avevamo pure in oca, vedo, non rispondessami. Non è andata, dai, giù, non è andata bene. Sì, no, no, adesso, la prossima settimana, devo fare il suo abilone. Cosa vuoi fare? Già lavorare, vedi? Aveva un po' da pensare che era stato già per te. Sì, sì, tempo. Non è tempo. Comunque, una cosa. A Sientino gli hanno fatto il contratto alla Tirrenia. A Sientino hanno fatto un contratto alla Tirrenia. Davvero? E lì da, e lì attracca la Tirrenia, Sientino. Alleluia. E attracco come ti faccio a dire, vanno bigliato. Il primo biglietto è grande. Vabbè, va, scherziamo, scherziamo. Comunque, un altro mondo. Lo so. Siamo nella Lampedusa, mi fra. Allora, Lampedusa, marca di dai. Cioè, si sta diventando anche quello un mare che è impossibile andarci, devi pagare, devi buttare le stuoie, devi vagare, devi costruirsi in bella sabbia, e va poco di malasussi. Oggi non ti devi portare neanche un granello a casa, ci devi portare. È tutta roba archeologica. E dopo carregheggiare i rivoni dal ristorante, ma finila. Ah no. Noi esageremo, là. Comunque basta non andare. Ormai non sta a sentire questa roba. Dove fa? Alleluia. Aggiù la gara. Ma lì è bello il mare, quello ti attira di andare, solo che quando vai a sentire un mare in scatola, salmire in scatola, uno attacca dalla sul velugo, ma che passa tra una e l'altra. Sì, ho un amico che lavora al Gabbiano, che è il cuoco, la persona che lavora con il cuoco. E così, tutti quando lì, per certo. Se invece non ci andasse nessuno, sarebbe succederebbe. Hai capito? Ci abbasseremmo la cresta tutti. Vabbè. Comunque risaputo, hanno scaricato al ristorante, l'hanno beccati, che scaricavano la fogna nel mare. Non è che si esce da fessilini, li hanno beccati davvero. Purtroppo c'è sempre quello che fa queste cose. Perché anche nella zona da Sosso, dove c'è quel fiumicciatolo che sbucca il mare, lì ve lo fiago di voi non si bussa. Ma no, lì c'è il detrattore di Sosso, dove c'è quel fiumicciatolo. Quello è lo sbocco delle quindi tutta cacca filtrata. Depuratore comunque. Ma c'è odore, perché una volta siamo andati con la mia compagna al mare e lei non ama dove c'è molta gente, quindi ha detto ci mettiamo lì che c'è poca gente. Ma non sapendo che c'era questa cosa che sbucava il mare, un fiago, siamo stati 2 secondi e ci siamo spostati, c'era una posta di foglia, non si poteva stare. Ma tu puro, per forza non c'è nessuno, fate una domanda, no? Anche deve essere data la risposta, ma sì. Vabbè, poteva essere un orario che magari se ne era andato, perché siamo arrivati alle 2 e molta gente se ne va per andare a mangiare, capito? Poteva essere anche un orario che la gente se ne era andata, quindi abbiamo visto che era più libero lì, ci mettiamo lì, Antonio Aviago, non ne mettiamo un bellone, io ci spostiamo, ce ne siamo andati provando. Non era appunto, no, era profumo. Ah, magari è andato fra. La sera prima c'era carico di stelle, e quindi hanno imbiciato tutti, erano tutti imbriachi, usci. E hanno mangiato bene anche, capito? Quindi non capisco. Poi la mattina presto. Ma è una cosa che si può fare o no, questo scarico qua? Tu dici? Allora, questo scarico non vuol dire che possono scaricare. dove la dì? Vabbè, ma tu pure a controllare, cazzo, già non ho mangiato i giustizi, non andava bene. No, sono andato a controllare nulla io, penso che la fammelo mangio, ma chi mi non ha giù fatto? Mi sono calato via da là, si è subito la macchina, mi sono controllato, adesso ti sono calato con quinto pitti. Ricordati già che chi comanda, chi può fare le cose, chi ha i soldi, caro non ha, non lo può fare. Scappa. Niente, anche alle bimbici avevo messo la grossa usa perché scaricavano lo stesso, le foglie le scaricavano lì. Vuol dire quello non l'ho pagato? Tu ci è tra. Comunque, sai dove sono, mi piace andare, guarda. Tutte le bogne. Vabbè, non mi sta nulla, mi raccontate, no, niente. Oh, da sì, è cosa ti devo raccontare a me. Ma e tu ancora nulla? Non avevi fatto nulla? Che sei? Non hai fatto domanda? Ma non è che io devo dire come c'è tempo, io sono ragazzo. E se, con le leggi nuove che hanno fatto adesso già ti mandano via. No, a me ne manca ancora minimo 4 anni. E allora? Vabbè, se vai a 70 anni. Vabbè, non ho 70, ma la roba con un picco così in mano. Sì, ragione. Ah, sono giovane, sono qualcosa oltre 60, ma cosa mi dici? Se avessi questo effetto. Andame, vai a lavorare allora. Beh, già. E allora, bisogna produrre che noi dobbiamo prendere la pensione, siamo vecchi, io ho 63 anni. E vabbè, dipende da come si riporta uno. No, io ancora mi manca il tempo. Vabbè, ma tu sei bene lasciati qui, sei già diverso. Magari, io sto provato, ma non me la va. Ma io ho avuto lo scivolo perché ho l'invalidità, quindi ho avuto 5 anni di scivolo. Oh già, a me che mi ha mandato lo scivolo, mi ha detto di andare a un corso comunale di giusto per seguire a che scivolo che aveva rifatto. E da poi a me è il pignolo burba a scivolare di giusto. Oh già, era. Vediamo, si è già fatto. Faccio anche 80, 90 anni, 30 anni, quando io poi mi dopo, a me me la date lui un successo. Allora mi ricorderò anche di voi, è lì. Mai dire mai. Vabbè dai, poi vediamo, va. A chi docca docca lui? Oh ma lì, chi si va alla roulette, va lui, ma come per noi, no? Chi si va alla roulette? La gira. Poi si vema. Vedrai, non ti chiedi, dai, invece, appena l'ho presa prima e ce ne sono andati prima. Qualcuno che l'ha pigliata da voi, ce ne è andato prima, di chiedo. Oh, e che non ho pigliato lui, a voi l'hanno fatto a te, almeno a lui. Infatti. Oh, Giulia, vabbè. Allora, con 5 anni io mi gioco. Oh. Che bustina ancora, io voglio. Venite, magari a 90, ma non so con ciò, no? Aspetta, sto saltando il filo, ragazzi. Non sei buccioli, no? No. Ma da te. Vediamo un po' se è rientrato Marco. Marco, ci sei? Sì, sto per ripartire, poi sarò nel traffico e c'è la macella modulare, anche perché se mi beccano col mic guidando sono dolori. Io ho sempre modulato, da Sassari a Porto Torres ho sempre modulato, con l'amplificato sopra il sedile destro della macchina. Io parlavo col microfono abbassato, mi sentivano benissimo e non c'erano problemi, non mi vedeva nessuno parlando. Lo so, ma questo è un mic normale già, ma lo devo avvicinare alla bocca, se no non si sente. Buonasera anche a Vannino, mi pare. Ok, tempo 2 minuti e riparto. Vai Vannino. Sì, ciao, buonasera, ti ascolto. Vabbè, basta mettere l'appoggiato sulle gambe e parlare. Vediamo se si sente. Gianni, vabbè, tu sei vicino, vediamo con Franco Cobanino. Allora, volume di parlata normale, ce l'ho appoggiato sulle gambe. 1, 2, 3, prova. Si sente, ecco. Oh, è un Mac normale, mica. Di quelli a capsula, come si chiama? Condensatore. Franco, com'è per te? Vedi un po', guarda, appoggiato sulla corsa. 1, 2, 3, 4, 5. Non ha cambiato niente. Cacchio, è buono sapersi, dai. Ah, ma lo so io il perché già. Il trimerino della M qua è stato leggermente aumentato, leggermente. Vabbè Marco, comunque adesso ti ho fatto scoprire una cosa nuova, quando guidi puoi parlare. Ha registrato. E io già, guarda che ti ho mandato la foto prima di uscire, di andare a vedere. Guardatela un po'. Ehi, oh, un attimino, dai, oh già, ci sentiamo, che ciao anche Marco e Ronino, che è arrivato gente. Ci sentiamo magari dopo se ci siete. E riprendi tu Gianni e fai rientrare il break, che c'era un break. Ehi, ciao Fra, avanti il break e poi ti facciamo salutare, dai, avanti il break. Buonasera a tutta la ruota, ciao Gianni, Gabino, diciamo al secondo torre. Ciao Joker, ben sentito, dopo tanto tempo, dai Gavi, ci fa piacere che sia rientrato, dai, buonasera. Devo dare il mic a Marco per fare i saluti e poi fa girare. Marco, va. Cappa, buon proseguimento di serata che sta chiudendo e ci sentiamo, io dico sempre migliore occasione, ma non arrivano mai. Vai Gavino, dopo tanto, buonasera. Buonasera a tutti, ben sentiti. Buonasera a tutti, ben sentiti. Come state? Ho montato oggi l'antenna, dai. Cappa, e che antenna hai messo, Gavi? Ho messo l'antenna, la GGGGG, aspetta che te lo dico subito. La Genpol, confermi, Gavi, Genpol. Stava guardando il manualetto, dai, l'etichetta, eccetera. Sì, forse sia la Genpol. A meno che non sia la G Max Grazioli, sarebbe top, eh. Vabbè, a me sono la top. Sì, scusate. Ho messo la Grazioli. Aspetta, quella è una signora antenna, Gavi. E se vuoi quanto sta arrivando, prova a modulare. Guarda un po'. Ehi. Gianni, guarda un pochino com'è. Sono 9.25, sì, Gavi, ma attaccato sì o normale? No, di radio. Sono di radio già. La radio è buona, qui la tua voce va molto bene, dai, per modulare, c'è una bella voce di modulazione. Cappa, sì, una signora antenna, capito? Ti sarei afferrato con tutta quella bullonatura, l'ho vista piazzare su internet, peccato i bulloni che va. No, il fatto è che devi mettere bene i radiali, questi quattro radiali devi metterli uno in sequenza all'altro. Cappa. Sì, sì, è una bella antenna, Se dicono che è la prima come trasmissione e ricezione, poi c'è la Grazioli. Gavino? Sì, Marco. Ascolta, ma hai preso la 5 ottavi oppure hai preso quella 5 ottavi più un quarto d'onda, la tipo 7 ottavi d'onda o quant'era? 6 ottavi. Il modello FE100V. Vabbè, dopo me lo guardo. E la lunghezza quant'è? Dalla lunghezza si capisce. La lunghezza è 7 metri. No, potrebbe essere la 5 ottavi. Vabbè, comunque è ottima, la fattura è ottima. Credo che attualmente come materiali sia assieme a quella è Claudio già, come si chiama quella 7 ottavi? Come qualità di materiali siano eccellenti, le migliori attualmente. Jim Paul. Vabbè, comunque va molto bene. Grazioli mi sa che non ne ha nessuno qua in zona, L'ho preso usata io. L'ho preso usata. Ho fatto un paio di chiamate stamattina, l'ho trovata, l'avevo smontata e niente, sono andato a prendermela subito. Ah, fatto bene. È stazionare, è buona? Sì, ho uno e uno. Uno e uno. Puliti. E allora va bene, dai. Andiamo, Gavi. Siamo contenti che sia rientrato. Infatti, dopo non è più rientrato. Da quando è andato nella casa nuova, non si è più fatto sentire. Beh, già, dovevo vedere un po' di cose prima di montare roba, di più o meno sondare com'è, capito? No, capito. sempre di quella zona, sì, capì? Sì, sì, zona Sorso. Dai, periferia di Sorso, va fino. Cappa, sì, sì, ho capito. E la zona Sorso di Bidriassi, là? Sì, sì, dai, sì, sì. Andava sempre lavorando, capì? Se non lavori non mangi già. Per forza bisogna lavorare, per forza, per forza. Comunque sì, una 5 ottavi. Va benissimo. Avanti, Vanni. Sì, comunque arriva bene il cassotto, non è schifo, non è schifo. Ma cos'è quella che ha il radiale di fianco, l'autobus? Ha quattro radiali. Quattro radiali, sì, che si mettono più o meno in cruccio, dai. Quella è la GPU, quella che stai dicendo tu, Vanni. Infatti, ma lui che cos'ha? La Grassoni o... La Grassoni. Ah, quindi non ha la GPU. Quindi sto guardando l'antenna. Vabbè. Non lo so se è la migliore, se è la peggiore, io ne ho una moto da 5 in pari. Non si sa quanto giusto, se si vede quello. Forse è la peggiore. La Mantova 5 è il mio sogno, io l'avevo e mi sono pentito di averla data. Io l'ho avuta per una bellezza di 13 anni, è andata sempre bene, poi le cornacchie mi hanno buttato giù i radiali e l'ho data e ne ho messo un'altra. Ma comunque guarda, sto guardando, più o meno è come la Mantova, diciamo che un'antenna che comunque è... ha dato soddisfazioni e hanno cercato di cercare il campo. Ma vabbè, solo che è sempre un uomo direzionale, quindi sono in stato. Allora Vanni, ti spiego, chi ha fatto quell'antenna lì lavorava proprio alla Mantova e l'ha perfezionata facendo le parti in acciaio, eccetera, eccetera, bulloneria tutto in acciaio, tutte le parti che si arrugginivano della Mantova dove si attaccava il piede l'hanno fatta in acciaio, cioè l'hanno perfezionata, capito? E il tubo è ancora più grosso della Mantova. Vabbè, comunque, cosa succede? Sono andati da 15-20 anni lì a Capo d'Asturia, io ho la dentista e la moto è la 33 anni, è 33. Da 40 anni, 40 anni, per forza, si è una batteria, penso un po', per dirsi che comunque è prodotta, e poi, però detto, l'unica cosa, l'antenna ogni 4-5 anni da solo, mi dai un po' di manutenzione e via, insomma, che adesso devo abbassare i calici, perché riesco bene a muovermi, così lo faccio con tutti e tutti, due, arriverò una manutenzione, direi la nostra pista, quando ricostruire. Sì, è vero, anche io alla Mantova l'avevo scesa una volta perché c'erano spezzati i radiali, li ho rifatti, ho preso l'alluminio da Bricco e i radiali d'alluminio, li ho fatti su misura, li ho rimessi ed è durata altre 7-8 anni, capito? Sì, ma in effetti è così, ma durano una vita, cosa te ne fai? Anche perché tu, quando ti ha fatto 20 anni, non ti vedi niente. Noi siamo qui di cose che siamo vicino al mare, quindi Castiglione, c'è un po' il resto, Maestrale, insomma, un po' se la permette, guarda, di tutte le verticali, i vivi, di tutte le difese, sono tutte consumate. Vabbè, anche se adesso mi devo assumere, gli darò una mano di... il nome, questa di Davide, gli darò una mano di legge, ma della... questa per fare una tenere... comunque per dire il problema noi ce l'abbiamo qua e invece c'è un altro posto così che si tranquilla c'è una città brutta e questo ma comunque è meglio ogni tanto dai adesso una settimana dedicare alle antenne poi sono tutte queste. Cappa e ogni tanto va fatta la manutenzione come tutte le cose, se le trascuri si invecchiano. Gavino, a te il mai? No, io ce l'avevo già, ti ricordi la Mantova, avevo la Mantova 5, l'avevo venduta e me ne sono pentito, c'è differenza tra questa qua e la Mantova 5, io la Mantova la vedo più robusta come antenna. Questa qua è bella, però la Mantova è la Mantova già, non c'è niente da fare. Comunque mi sta arrivando Gianni con un segnale di 9 pieno, la armi con Franco, se non sbaglio, è 9-5, 9-5 tutte le armi, così ti direi. Certo, Franco, a sorse lì vicino, e comunque già va bene, l'interessante è che ci sentiamo, sei chiarissimo. E certo, me la ricordo, l'avevi messa al circolo quell'antenna. Sì, quell'antenna è, guarda, poi lo sai come uscivo io, ero sempre a secco. Mi ha tolto tante soddisfazioni la mano, ma perché l'avevo portata al circolo e poi a casa, non avevo mai avuto problemi di niente, sempre fatta la manutenzione e mi è durata, sai quanto mi è durata, e me ne sono pentito averla data. E anche io l'ho data, perché mi ero stufato di rimetterli sempre in radiali, alla fine ho detto vabbè, me la prendo nuova, tanto c'ha i suoi anni, l'ho smontata e l'ho regalata, capito? Però diciamo che poi ho preso un'altra antenna che non mi è piaciuta nulla, mi si è troncata in due col vento, e allora adesso ho la Superlem, che questa Superlem c'ha praticamente tutto il basamento in acciaio, è fatta bene, c'è la tubazione, è tipo la Mantova 1, c'ha quattro radiali e è bella robusta come antenna. Che radio stai usando tu già adesso? Adesso io ho il Galaxy Saturn-Eco. Bello. Io sono con un Nikon, con un 737. C'è bello, è una bella radio, capì? È una bella radio naturale, proprio, diciamo, va benissimo. Vai Franco, a te il mic. Non metti, tu capi fuori di frequenza. Fanny, sei uscito fuori frequenza per un periodo, dai. Hai ragione, adesso va bene, dai. E cosa, ti sei spostato? Avanti, mi a me. In frequenza. Ciao Gianni, ciao. Vedete, mi c'è un po' il canale. Che lo so chi c'è. Ciao Tonino, ben sentito. In compagnia di Joker da Stare Porto Torres, Vanino, Lasursu, Marco Condor e poi me medesimo. Saluto nel circolare. Avanti questo Joker da Stare Porto Torres. Magari il Joker. Lo senti, Gavi? Lo sento, diciamo, in mezzo a un po' di QRM. Già, non lo capisco. Addirittura mezzo a QRM. E adesso? Adesso un pochino meglio. Avanti già, fai girare. Sì, Gavi, adesso come mi senti di segnale? Guarda che ti ha catturato a parecchio. Mi arrivi un po' di torto, già. Prima arrivava benissimo, adesso mi arriva un po' di torto. Ma fammi capire, sei a Porto Torres o nella strada di Porto Torres? Dalla provincia 25, sorso Porto Torres. Ho chiesto le campagne qui, sicuramente, ma non è sotto tempo, mi sono riscaldato, Andrà bene. Gavi, guarda adesso se distorta la radio. È buona? Adesso è buona. Vabbè, dai. Sei salito di segnale anche. Ci avevo la potenza al massimo, capito? E io ho la potenza a metà. Cosa vuol dire la potenza a metà? L'RF a metà. L'RF? No, la carta è che si batti di passare con le nostre. Scusa, non ti ho capito. L'RF è un'altra cosa, la potenza è una cosa. Poiché la carta di batti sta tirando. Il power! Parliamo di potenza, la potenza è quella. Allora, adesso è al massimo, guarda un po'. Hai fatto? Ah, vabbè, ma stai usando un apparato omologato, quello che devi fare. Aspettate un attimino, che c'è Marco che sta salutando, un secondo solo. Avanti, Marco. Eia, c'ho un problema bestiale. Senta, ma appena chi stava parlando sotto, ho sentito qualcun altro, ma non l'ho riconosciuto. Sono arrivato a destinazione, ho scaricato la persona e sono smonto tutto. Mi dispiace, hanno questi apparecchietti moderni, questi omologattini di adesso, non solo gli omologati, sono troppo, ma troppo omologati. No, schizzare maledizioni che mi hanno mandato invece qua. E d'altronde, ascolta, io ho 2 mesi in strada. Se esco da un mezzo o l'altro devo rimanere in sosta, no? E non lo lascio la spina di pesce, perché le signore, le donne, soprattutto, che non sanno guidare, me la rovesciano, come è sempre successo, capito? È retromarcia. Non sanno manovrare, la toccano e la rovesciano. Allora io la metto dritta, con i circolci, farò lei dal marciapiede e mi tengo il posto alto, cosa vuoi di voi? Vai pulito. E fai bene, io avrei fatto la stessa cosa. Cappa, allora quelletti esecutivo, stacco tutto. Guardati la foto già, ciao. L'ho visto, bello Marco, un bel apparecchio, solo a me che questi tastini del non è che non mi piacciono. Vabbè dai, buon curretti, l'unica cosa che non mi piace è il Mac e quei tastini. Perché ha funzioni speciali già, questo è il subtoni, se tu vuoi praticamente modulare con un apparecchio similare senza interferenze, cioè senti solo piaciuto, non senti nient'altro, lo squelcio se no non si apre, se non ha il subtono giusto, come il VHF e VHF con la roba lì. Va bene, ciao, buona serata a tutti, ciao. Ciao, avanti tu. Capa, ciao Marco Ricci, buon correttato, alla prossima, quando vuoi entrare siamo qua. Benemera, sì, dunque a parte di corso che c'è, ha detto Giulio, insomma, da Dratto, Vannino come si chiama, e l'altro chi c'era? L'altro è Vannino di Sorso. Avanti Vannino di Sorso, mi compito. Sì, aspetta, innesco, ecco. Adesso come mi ascolti, farà poco, 1, 2, 3. No, c'è un segnale di tutto, ma la radio è scarsa, non è una radio bella, buona, pubblicata, e le cose. Niente, devo lasciare così, va bene? Sì, così è meglio, abbassi di un decibel, però comunque la radio è migliore. K, la lasciamo così, dai. Ok, bene, bene, strano, io attacco e arrivo molto più forte a Sorso. Ovviamente tu c'è una posizione negativa per la parte mia. Io, Franco, è nato tutto, magari avendo io per la posizione. Perché io sono la zona San Camillo, fate il conto. Vabbè, comunque, non sai dove apri, perché non è così. Io l'ho detto al centro del paese, dove c'è la piazza, capito. E in quella zona c'era anche un altro CB, ma un vecchio CB tempo fa, che non mi ricordo come si chiamava, però sapevo benissimo che faceva il tax abusivo al mercato. Tu te lo ricordi già? No. Non me lo ricordo nominativo io. Vabbè, sono passati troppi anni, dai. Sì, ma quello era vicino, mi sa, non era vicino. Era di corso lui, ma abitava a e sì, faceva il tax. Non si sa, adesso è un tipo anche grande che sta. Sì, non me lo ricordo neanche io, avevo parlato solo 2 o 3 volte, sì. Non è che sì, sono nato qua in Portobello, ma questo è lo so, capito. Sì, non me lo ricordo come si chiama. Sì, non si sa qua, no, vicino a me chi è che è? No, vicino a me è difficile. No, non mi ricordo il nome, sì, tantissimo, adesso è vecchio, giustamente, gli anni passano per tutti, quindi. No, di solito conosco parecchie persone, dai. Giuseppe De Turi, Toredao, Mario Cagnoni, la buon'anima di Gino Bebè, Gino Biosa, Francesco Pittarsi, nonché Cecconi, ne conosco. Che sai dove abita? Cecconi, per dire io abito una via parallela lì. No, con esattezza non lo so dove abita Cecconi. Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme a Piume Santo, nell'85. Da 56 fino a 96. Ho cambiato apparecchio. Adesso sei più cauto, più leggero, più bello, chiaro chiaro e più sereno. Ah, sì, la domanda sì, no, io ho lavorato a Piume Santo perché a Piume Santo per il campo. Poi dal 2002. E io ho 11 anni, dai, all'incirca. Sì, poi sono andato per la provincia, quindi sono stato meglio, dai. Lavoravo solo la mattina. E poi dopo 25 anni lì ho fatto. Comunque, io sono dall'anno scorso in pensione, quindi non basta. Bravo. Buongiorno, vabbè, è stato bene comunque perché ho avuto un po'. Vabbè, ho lavorato tutti, Sì, questo è un abbraccio, vabbè. Andiamo via. Non me lo dire a me perché ero 6 anni delegato sindacale, ti ho detto tutto. Anche io sono un caro. Comunque sì. Vabbè, ha visto che era anche quello. Sì, lui ha detto una corretta, diciamo una via per il traffico di testo, la chiave, più o meno, più o meno. Sì, Cecconi era spesso in infortunio, tra la pennata, Ruggino ci deve farata. Ok, dai Gianni che stai scendo meglio adesso. Radio Zero, Gianni. Radio? Adesso sì, eri Radio Zero. Sì, non avevo schiacciato bene il pulsante, deve essere. Dai, rilancia. Ma uscendo sto, sì. Sì, stai tranquillo che se non esci te lo dico subito. K. Gavino, mi ascolti? Positivo, Gianni, positivo. Ti ascolto forte e chiaro. Comunque, Vannino, qua io nel manuale c'è scritto potenza massime e minime in RF e output. Quindi sì, è questo RF power. Ho detto giusto. Sì, power vuol dire potenza. Sì, è lui. Oh già. Dimmela. Ho messo su Facebook 4 baracchini, quelli proprio vici. E funzionano, eh? A blocco. E venduti li hai? No, li ho messo te la voce. Date, è vero che Sefra mi ha detto, cazzo, io con la faietta non l'avrei venduto. Perché sono baracchini forti. Se ti metti per dare più tre lì, guai. Torino. No, sei uscito, lì Torino. Quale Lafayette ho detto? Quello vecchio, non te lo mandate il telefono? No, non me lo ricordo, no, non mi ricordo quale, vabbè. Comunque ti dicevi di tutti, là. A piano piano ti vedi tutti. No Gianni, ti ho detto, allora io ne ho tanti baracchini. Me ne voglio tenere soltanto due e boh, tutto il resto voglio liberarlo, quella magia che ho fatto a muro, perché ci voglio mettere agronomo, provvista, eccetera, eccetera, capito? Ho poco posto qua e quindi mi hanno fatto lo spazio per i baracchini, no, assolutamente. Manuele quando è venuto qua ha detto no, io avrei messo i baracchini invece di tutta la vetrinetta che c'hai. E allora mi muovo i baracchini di vetrina, ma lo teniate, tac, se va bene così. No niente, voglio farmi pulizia, capito? E vendo, ripeto, un bel po' di baracchini, ne ho anche 23 canali, vecchi, ma belli, ne ho tanti, come passa. E ad voi. Ma io ho cambiato radio, lo stesso, come è questo? È buono, come radio. Oh, e vediamo. Troppo in fretta ha parlato, adesso è uscito male. Perché il microfono ha precicchiato, ma dovrebbe andare bene adesso. Adesso sì. E infatti, non conviene difficoltare. Speriale è sempre uguale, sì, o di più forte. Ma io ti ricevo qua 9:20. Dai, poco. Buonasera, cani 10. Buonasera a te. Mio genio, buonasera. Ciao Gio, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, a Foto Torres, la capitale della Sardegna. Ciao, oggi, 7 agosto, picchi positivi, 9:05. Mai arrivato così forte. Ma non mi sente? Sì, ti sento basso, molto basso, non riesco a capire chi sei. Ehi, Torino sono. Oltre mi sei mai arrivato così. Ma io ho spostato solo l'antenna e basta. E buh. Perché se no, mi messo così. Vedi, adesso come si viene aumentato, ma direi che faccio schifo. Allora, adesso aumentato, si è arrivato a 7, ho durati 8, però la radio non riesco a capire. Infatti, devo lasciare così oggi, capito, sennò negativo. Purtroppo, niente da fare. Ok, comunque già ti siete abbastanza bene, non ti ho mai sentito, io l'antenna l'ho spostata, quindi di 3 metri. Devo soltanto sollevare un po' e basta. Però ti dicevo, molto più forte da come c'era l'antenna prima, capito? Ma dimmi chi sei che non ti ho capito, non riesco a capire, non riesco a riconoscere la radio. Tonino! Ah, Tonino, ok, Tonino, no, adesso ci siamo. Vabbè, quindi mi senti, mi ascolti bene. Vabbè, tu arrivi 3, 4 qua, Io sono negativo al Porto Torres. Se no riesco a tirarti fuori, se mi aumenta il QRM no. Però adesso 3-4 fa bene. Posso aumentare qualcosa e quindi capito, però mi ne sa quello che ha applicato. Dovrei mettere il mic normale, ma non a Giovanna va. Già riesco a capirti comunque, vai. Piano piano riesco a tirarti fuori. Poi sono in compagnia di... C'è Gianni,